Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata, buon inizio settimana, finalmente la apriamo in termini primaverili dopo aver visto tanta pioggia ultimamente. Di che cosa parliamo noi oggi? Non abbiamo una guida del Sole 24 Ore, che è tradizionalmente il nostro appuntamento fisso del lunedì. Oggi abbiamo un tema finanziario, perché? Perché c'è la nuova emissione del BTP Italia, e siccome vi abbiamo sempre accompagnato nella spiegazione di questo titolo di Stato nato un anno fa, come ricorderete, per una scelta precisa da parte del Ministero dell'Economia, ci sembrava utile oggi fare anche una puntata che descrivesse le caratteristiche di questa operazione e le differenze anche rispetto alle operazioni dello scorso anno. Il BTP Italia, dunque, dicevamo, un prodotto del Tesoro che in un certo senso è stato anche il frutto di mesi di spread in salita, di crisi economica, di preoccupazioni. Ne è stato anche l'idea riuscita che ha permesso di fare ritornare tante famiglie ad investire i propri risparmi nel debito italiano. Una sfida che è stata vinta nei primi 3 collocamenti realizzati lo scorso anno e che hanno permesso di raccogliere complessivamente circa 27 miliardi di euro, anche se per la verità nelle 3 operazioni dello scorso anno la raccolta è andata in maniera molto diversa, perché è andata benino quella di marzo del 2012, il Tesoro aveva raccolto circa 7 miliardi, molto meno nell'operazione di giugno, 1,7 miliardi, molto di più invece nell'operazione di ottobre, 17 miliardi di euro. Le caratteristiche di questa operazione che parte oggi è che teoricamente si conclude giovedì 18 aprile, ma poi sentiremo Maria Cannata del Tesoro italiano. È stato già detto che nella sostanza il Tesoro potrebbe anche decidere di chiudere anticipatamente l'operazione. Dicevo, le caratteristiche sono le stesse delle operazioni precedenti. Titolo che dura 4 anni, tasso annuo minimo prestabilito, è stato fissato venerdì scorso al 2,25%, un rendimento legato all'inflazione, cedola semestrale, premio fedeltà per chi detiene fino a scadenza, 0 commissioni bancarie per chi sottoscrive in questo periodo del collocamento. E però va anche detto che questa emissione viene effettuata in un momento molto delicato per l'Italia, perché c'è lo stallo politico che ci sta facendo tenere sotto stretta osservazione da parte degli investitori internazionali, e oltretutto da settimane si teme un nuovo intervento delle agenzie di rating. E allora noi oggi, alla luce di tutto questo, commentiamo questa operazione, il funzionamento di questo prodotto, e ci confrontiamo anche con i nostri esperti per capire se è opportuno o meno continuare ad incrementare la posizione sul debito italiano. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666. Avete anche la modalità email, il nostro indirizzo di posta è salvadanaio@radio24.it. Se volete potete andare su Facebook, salvadanaio-radio24 è il nostro profilo, su Twitter @salvadanaio24. Questa mattina ci accompagneranno Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Buongiorno. Buongiorno a voi. E ben ritornato e ben ritrovato anche a Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza Lupotto & Partners. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto questo, però, adesso vi anticipo già, ma sono già sicura che Pietro Poletto ci darà anche ulteriori aggiornamenti. Vedo lampeggiare delle agenzie, appunto, che poco fa abbiamo raggiunto, Poletto, i 4 miliardi di raccolta già questa mattina sul titolo. Superati ampiamente, siamo 4 miliardi 760 milioni pochi minuti fa, con 62.000 contratti scambiati sul titolo. Benissimo. Quindi è un risultato ancora meglio di quello di ottobre? Sì, ancora meglio di quello di ottobre. Quindi diciamo che le prerogative, le avvisaglie sono già addirittura superiori rispetto all'andamento appunto del collocamento di ottobre, che era stato quello in assoluto record dello scorso anno. Io ho intervistato Maria Cannata, la sentiremo tra poco questa mattina, e intorno alle 10 il titolo aveva già raccolto circa 1,5 miliardi e già appunto ha ritenuto un tasso di raccolta largamente soddisfacente. Non si è voluta sbilanciare Maria Cannata, poi lo sentiremo su a che punto di raccolta il Tesoro potrebbe decidere di interrompere appunto il collocamento. Prima di parlare di tutto questo, però, un'occhiata proprio alla borsa questa mattina, che invece ci fa soffrire un po' di più.

Senta, date le indicazioni che ci ha anche spiegato prima relativamente alla scelta di eventualmente chiudere in termini anticipati questa operazione di oggi, questo significa che nel corso dell'anno di emissioni di BTP Italia non ce ne saranno più? No, ce ne sarà sicuramente un'altra, abbiamo annunciato nelle nostre linee guida che quest'anno ne avremmo fatte due. Una è questa qui e l'altra sarà nella seconda parte dell'anno. Dell'anno, quindi non tre come lo scorso anno, ma in questo caso due operazioni. Sì. Dottoressa sì. Cannata, da settimane temiamo l'arrivo della scure di Moody's. Il Tesoro anche la teme? No, francamente non vedo motivi particolari per cui l'agenzia debba muoversi. Naturalmente quell'agenzia e tutte le altre tengono sotto osservazione la situazione politico-istituzionale, il fatto che siamo ancora dopo tanto tempo dalle elezioni un po' appesi è una cosa che loro monitorano con molta cura, ma non solo Moody's, tutte le agenzie. E invece insomma abbiamo capito da come sta andando la raccolta questa mattina, il tasso di adesioni al nuovo BTP Italia, mi pare di capire che il clima generale, la scure di Moody's non la tema affatto. Pietro Poletto, torno un attimo da lei, borsa italiana, per capire se invece lei ha una sensazione sul termine che potrebbe indicare, che potrebbe far suggerire al Tesoro di interrompere appunto il collocamento, secondo lei di quanto si accontenterà? Ma non è facile dirlo, però ai ritmi con cui stiamo andando adesso si potrebbe arrivare ai 8-10 miliardi già oggi. Quindi potrebbe già essere insomma un importo che il Tesoro potrebbe reputare largamente soddisfacente, chiuderla addirittura in giornata l'operazione. Beh, non credo che la chiuda oggi. Non crede che la chiuda. No. Gianni Lupotto, lei che cosa ne pensa? Poi con lei naturalmente tecnicamente invece andiamo all'opportunità di investire in questo strumento e al calcolo anche dei rendimenti. Ma però che sensazione ha? Sì, no, diciamo anche se la chiusura venisse questa sera ci sarebbe comunque tempo per i risparmiatori tutto domani per sottoscrivere, perché questo è nel regolamento. Diciamo che per come stanno andando le cose è possibile una chiusura dopo due giorni, perché in questo momento siamo a circa 5 miliardi e non siamo ancora neanche a metà giornata, e quindi si potrebbe chiudere, come diceva Poletto, attorno a 10 questa giornata, che vorrebbe dire, proiettando gli stessi numeri anche su domani, una chiusura sui 20 miliardi, che addirittura superiore alla precedente emissione. A quella di ottobre, che fu record. Peraltro anche in quell'occasione ci interrogammo a lungo sulle motivazioni per cui appunto ad ottobre ci fu un tasso di adesione così consistente, mentre nel mese di giugno era stata estremamente limitata appunto la raccolta su questo prodotto, ma con la stessa Maria Cannata avevamo detto era stato un mese difficile, era arrivata l'IMU, l'arrivo anche della stagione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle tasse, perché tutte situazioni che avevano un po' limitato anche le scelte da parte degli investitori e dei risparmiatori. Andiamo invece all'operazione di oggi a spiegare bene come si calcola il rendimento. Ci metto subito dentro anche una domanda di un ascoltatore, che è quella di Riccardo da Cagliari, che ci aiuta già subito ad animare il nostro programma. L'800240024. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. Dunque, io ho visto su internet dei siti dedicati che parlano di inflazione e di stime per i mesi che verranno. Le previsioni sono di un'inflazione molto bassa. Ho visto, sì. Non so quanto siano attendibili, ma ho visto dei numeri che arrivano anche fino allo 0,5 sotto. Quindi mi chiedo, con un tasso reale minimo garantito così, cioè poco sopra il 2, un'inflazione così bassa, quanto conviene sottoscriverli? Cioè, se faccio un confronto con l'altra emissione di giugno, dove era al 3,35, l'inflazione che era al 3%, c'è uno stacco notevole. Quindi quanto oggi conviene alla lunga? Infatti, allora tutta questa corsa anche di questa mattina potrebbe generare qualche errore da parte degli investitori. Gianni Lupotto, siccome a lei avevo chiesto il prospetto di confronto con le altre emissioni precedenti, l'osservazione di Riccardo è tutt'altro che impertinente, direi che anzi assolutamente pertinente, però lo 0,5% io non l'ho visto da nessuna parte, sicuramente abbiamo un'inflazione largamente sotto controllo nel nostro paese. L'inflazione italiana è in calo netto, se pensiamo che l'anno scorso, quando ci furono le precedenti emissioni, l'inflazione italiana viaggiava attorno al 3%, adesso l'ultimo dato del 31 marzo è dell'1,60% ed è ancora in diminuzione, quindi diciamo le previsioni lasciano sempre il tempo che trovano, però è possibile un'ulteriore contrazione dell'inflazione nei prossimi mesi. In realtà quello che bisogna calcolare quando si deve decidere se sottoscrivere una obbligazione indicizzata all'inflazione o una, diciamo così, regolare, non ordinaria, non indicizzata, e capire qual è l'inflazione implicita che si va a coprire nel confronto per l'appunto fra il titolo indicizzato e quello non indicizzato. Se noi andiamo a guardare l'emissione attuale del BTP Italia attualmente in emissione, non sappiamo ancora quale sarà il tasso definitivo. Possiamo comunque, tra l'altro, quando viene stabilito? Viene stabilito venerdì, sì, o diciamo il giorno dopo la chiusura. Comunque, se in caso di chiusura giovedì, verrebbe stabilito venerdì, in ogni caso viene stabilito il giorno dopo la chiusura del collocamento. Adesso teniamo per buono questo 2,25, che ritengo sia difficilmente suscettibile di incremento visto anche il successo del collocamento. Se così fosse, noi dobbiamo confrontare il rendimento del BTP Italia con BTP di ordinari di simile scadenza. La scadenza più simile è il BTP del 1 maggio 2017, che rende il 4,75 come cedola. Se noi andiamo a fare un confronto della inflazione implicita, essa è lo 0,70 circa. Significa che se l'inflazione di qui al 2017 dovesse essere superiore nella media dei 4 anni a 0,70, la sottoscrizione del BTP Italia è conveniente. Okay? Questo per quanto riguarda l'inflazione media di periodo. Adesso è 1,60, quindi se scendesse, come diceva l'ascoltatore, anche fino a 0,50, questo avverrebbe in un certo lasso di tempo. Certo, comunque se la media dell'inflazione fosse superiore a 0,70, la sottoscrizione del BTP Italia sarebbe comunque in questo momento più conveniente dell'acquisto a mercato di un BTP di tradizionale, appunto, caratteristiche. Benissimo, allora ci dobbiamo fermare. 800 24 00 24 per continuare a prenotare i vostri interventi sul tema di questa mattina. E allora, ci sono degli ascoltatori, lo preannuncio già ai miei ospiti, che ci stanno facendo stanno prenotando appunto i loro interventi per chiederci dei chiarimenti sul tema delle cosiddette CACS. So che è un termine complicato, ma sono le cosiddette clausole di azione collettiva, che sono state sottoscritte anche dal Tesoro italiano, che ha aderito al trattato di istituzione del meccanismo europeo di stabilità. Eccoci di nuovo ritrovati in diretta, ancora buona giornata, la Deborah Rosciani, Salvadanaio dedicata alla nuova operazione organizzata questa mattina dal Tesoro italiano, che ha lanciato sul mercato la quarta emissione appunto del BTP Italia. Pietro Poletto, Borsa Italiana, ancora buongiorno, ci eravamo lasciati ad un tasso di raccolta che aveva toccato quasi 5 miliardi di euro, negli ultimi minuti sono stati superati? Siamo molto vicini. Senta, vogliamo ricordare con lei anche le altre caratteristiche dell'operazione. Nel periodo del collocamento il Tesoro ha chiesto al sistema bancario di non far pagare intanto le commissioni di sottoscrizione. È rimasta questa caratteristica anche per questa operazione? Le caratteristiche sostanziali sono rimaste analoghe, per cui non c'è nessun tipo di costo aggiuntivo per il commissione di sottoscrizione per il sottoscrittore. In più, per i soggetti, persone fisiche che deterranno il titolo fino a scadenza, c'è il cosiddetto premio fedeltà del 4 per 1000 che verrà riconosciuto a scadenza. Quindi in sostanza per ogni 4 per 1000, ecco, per farci un paragone appunto, quanti titoli verranno sostanzialmente regalati dal Tesoro in base alla tipologia di pacchetto detenuto? Dipenderà Pronto? Sì, ci siamo. Dipende quando verrà sottoscritto, comunque quel premio fedeltà verrà riconosciuto a scadenza quando ci sarà il rimborso. Allora, 800 24 00 24, con noi c'è anche un consulente finanziario, Gianni Lupotto, che ci aiuta in genere a capire e a fare delle valutazioni di convenienza economica sulla scelta di determinate tipologie di investimento. E c'è un tipo appunto di relazione che fa un nostro ascoltatore, Loris da Bologna, che saluto. Loris, buongiorno. Lui chiede un po', se non ho capito male, di stabilire appunto il rapporto fra i dividendi di borsa e le cedole dei titoli di Stato. Buongiorno. Buongiorno, sì, io chiedevo questo. Pur con le difficoltà che si ha a volte a muoversi per scarsa preparazione, credo, almeno la mia sicuramente, sulle borse, io mi sono accorto nel tempo che c'è un rapporto tra la cedola, il valore dell'azione e la cedola, che secondo me è molto buono. Allora io domando, che senso avrebbe? Cioè, perché scegliere uno strumento come il BOT e non muoversi invece rispetto a cedere l'arsenale come quella di Eni, come quella di Atlantica, come quella di Lima, insomma, che sono, secondo me, in termini percentuali, a volte uguali, superiori al 5%. Beh, Lori, sì, certo, sì, no, chiarissimo. Beh, intanto questo dipende anche dalla tipologia di esigenze che un risparmiatore ha e se ritiene di voler rischiare un po' di più, anche se effettivamente oggi anche il titolo di Stato qualche rischio maggiore rispetto al passato lo ha. Gianni Lupotto, dipende sicuramente anche dalle scelte individuali, no? E a parte il fatto che ritengo che non si debba scegliere l'uno piuttosto che un altro, se uno ha l'opportunità magari di diversificare con l'uno e l'altro, forse è la scelta migliore, no? Sì, diciamo che va detto che conta anche, diciamo, l'orizzonte temporale dell'investimento. Nel caso dell'ascoltatore, se io acquisto un titolo azionario, fra 4 anni non ho la garanzia di avere lo stesso ammontare di capitale originario. Magari ho goduto di buoni dividendi, ma non è detto che fra 4 anni il titolo abbia lo stesso valore, potrebbe essere superiore ma anche molto inferiore. Acquistando un BTP, perché di questo stiamo parlando oggi, io ho la garanzia di ottenere un rimborso che è noto fino da oggi. E allora andiamo adesso anche ad alcuni aspetti di carattere fiscale. Pietro Poletto, Paolo da Genova, ci chiede se questi titoli sono soggetti alla mini patrimoniale. Se questi, mi pare per i titoli di Stato che ci fosse lo stesso, no, questa applicazione. Ma questi titoli, come tutti i titoli di Stato, sono tassati al 12,5%. Forse sì, no, allora vado da Gianni Lupotto, credo che lui chiedesse, l'ascoltatore Lupotto, quel famoso 0,10% che abbiamo pagato da quest'anno su determinate, appunto, dallo scorso anno, anzi, tipologie appunto di patrimonio investito, la cosiddetta mini patrimoniale. Sì, sì, si applica anche a questi, si applica alla totalità del portafoglio titoli e da quest'anno ricordo che è dello 0,15% senza minimi. Allora, si applica anche ai BTP Italia. Certo, vogliamo andare a rifare così qualche spiegazione, a ridare qualche spiegazione. Gianni Lupotto, ritorno con lei rispetto alle caratteristiche teoriche, perché l'operazione non è ancora terminata, del rendimento che potrebbe permettere di ottenere ai sottoscrittori appunto le di questa mattina rispetto agli altri. Intanto qual è stato sulle 3 emissioni dello scorso anno quello che aveva dato in termini proprio di remunerazione al sottoscrittore, quello che aveva dato maggiori soddisfazioni? Sì, in termini di remunerazione fino a questo momento indubbiamente la seconda emissione è stata la più generosa, in quanto essendo partita con un tasso minimo garantito oltre inflazione di 3,55 ha ovviamente goduto di un maggiore apprezzamento in conto capitale. Adesso questa emissione, che era stata sottoscritta a 100, quota attorno a 104,80, oggi 104,90, quindi oltre a garantire una copertura dall'inflazione, nel caso fosse venduta anticipatamente, per esempio oggi, garantisce anche un notevole capital gain. In realtà il ragionamento che si pone per un risparmiatore che deve sottoscrivere oggi e che magari non ha sottoscritto in passato altri BTP Italia è di fare un confronto se sia più conveniente sottoscrivere in emissione il BTP Italia di oggi o magari acquistare sul mercato una delle altre 3 emissioni disponibili. Questo ragionamento lo abbiamo provato a calcolare. Chiaramente la prima cosa da considerare è che a questo punto abbiamo un ventaglio di scadenze possibili, perché la prima emissione oramai ha una scadenza a 3 anni, non più a 4 anni, e le altre via via sono scaglionate e quest'ultima ha 4 anni di scadenza. Questo è il primo elemento. La seconda cosa da calcolare è vedere, sulla base dei prezzi di mercato delle altre 3 emissioni, qual è il vero rendimento effettivo oltre l'inflazione che si ottiene acquistandole a mercato. Sappiamo già che per il BTP Italia in collocamento è il 2,25 questo rendimento effettivo oltre l'inflazione, più il bonus che è uno 0,10 per anno, quindi 2,35. Per quanto riguarda le altre emissioni, oggi i prezzi che ho visto poco fa sul mercato consentono un rendimento attorno ai 2 punti per le prime 2 emissioni e del 2,10 per la terza. Quindi apparentemente in questo momento il BTP Italia in collocamento è quello che ha la miglior copertura dall'inflazione, va anche detto che è quello che ha la più lunga scadenza. Perché? chi ha in portafoglio BTP Italia vecchia emissione è, diciamo, può considerarsi anche l'opzione di vendere a mercato il BTP Italia che si ha in portafoglio per sottoscrivere questo in virtù del miglior rendimento rispetto all'inflazione, seppur modesto. Allora, 800 24 00 24, il numero che vi permette ancora di intervenire in diretta, interagire con noi sul tema di stamattina. Abbiamo pronto Luigi da Roma. Prima però vorrei tornare a Pietro Poletto per un'altra domanda, perché noi abbiamo molte volte, lo scorso anno, quando ci siamo occupati appunto di questo tema in concomitanza con le tre precedenti emissioni, abbiamo detto come nell'obiettivo del Tesoro ci fosse stato quello di permettere di presentare sul mercato uno strumento che potesse appunto essere adatto particolarmente per l'investitore domestico. Le chiedo però se ci sono anche state dei movimenti interessanti invece da parte della comunità finanziaria internazionale, poi mi rendo conto che magari questo dato ce lo avrà sicuramente più attendibile lo stesso Tesoro, ma dall'estero c'è stato interesse oppure davvero è stato un titolo che è finito solo in Italia e poco in giro per il mondo, Poletto? No, sicuramente il dato che abbiamo visto, specialmente nell'ultima emissione, quella da 18 miliardi, c'è stato anche interesse da parte di investitori esteri, sicuramente. C'è stata una pluralità di soggetti, dall'investitore retail al private banking, soggetti istituzionali che possiamo individuare nelle assicurazioni, nonché nelle casse previdenziali, che magari hanno esigenza di garantire un rendimento minimo costante indicizzato all'inflazione, hanno trovato questo strumento assolutamente interessante, pur non avendo magari la durata che può essere confacente alle loro esigenze. Però non essendoci strumenti analoghi sul mercato, è stato sicuramente un qualcosa di interessante anche per loro. Poletto, qualche settimana fa tra le varie aste che il Tesoro italiano appunto ha organizzato, ce n'è stata una che aveva destato un po' di, non dico timore, però una maggiore attenzione rispetto alle altre delle settimane precedenti e poi anche delle settimane successive, perché è stato collocato un BTP a 5 anni che ha inaspettatamente manifestato una richiesta più alta in termini di rendimenti appunto da parte del mercato. E siccome il BTP Italia adesso non è di 5 anni, è di 4, però potrebbe essere anche assimilabile ad uno strumento di questo tipo, secondo lei che tipo di ragionamento dobbiamo fare su questo? Ma direi che la situazione che è successa poche settimane fa sul BTP 5 anni direi abbastanza particolare. Siamo arrivati in un contesto dove c'era un'aspettativa, dove c'era un possibile era proprio un periodo di Moody's, esatto, dell'agenzia di rating, per cui evidentemente lo circoscriverei a quel fatto particolare. Invece, per quanto riguarda questo tipo di strumenti, la scadenza a 4 anni è quella considerata che meglio si confà alle esigenze di un investitore retail, però non è né troppo lunga né troppo corta. Attenzione però che, come diceva Maria Cannata, insomma, questa emissione potrebbe essere limitata e circoscritta, perché poi nel 2017, con le scadenze che ci saranno, non vorrei che il Tesoro si trovasse un po' ingolfato con gli appuntamenti. Allora, un ascoltatore osserva: bello spot elettorale, la signora Cannata ve ne sarà grata, peccato che i nostri politici non meritino tanto. Forse Paolo le è sfuggito che Maria Cannata non è proprio mai stata candidata in nessun partito, speriamo di non essere smentita, è un tecnico del Tesoro, un dirigente, non c'entra nulla con la bagarre politica a cui stiamo assistendo. Seconda cosa, come si acquistano i BTP Italia, ci chiede un ascoltatore, Pietro Poletto, magari ritorno con lei, ma insomma, come qualunque altro strumento di investimento, si va dal consulente, si va in banca, non è che questa sia un'operazione straordinaria per quello che riguarda le tipologie dell'intermediazione. No, assolutamente, ecco. È un titolo che è direttamente sulla piattaforma Moti Borsa Italiana, tramite internet, tramite l'home banking, tramite gli uffici della posta, tramite il proprio consulente finanziario, ogni sportello bancario si può prenotare questo tipo di titolo. Esatto, e poi rispondendo anche a Mario, acquistando titoli sul mercato non si pagano le commissioni, non si pagano in questi 3 o 4 giorni, che potrebbero anche essere solo 2, le commissioni di negoziazione, si pagheranno appunto nel momento in cui questo titolo verrà acquistato nei prossimi giorni appunto sul mercato secondario. Gianni Lupotto, ritorno per un secondo, anzi sentiamo subito Luigi da Roma, poi chiedo anche a Gianni Lupotto di farci 2 esempi concreti sul rendimento che potrebbero maturare i titoli emessi oggi, magari in rapporto ai precedenti, perché c'è chi ci chiede degli esempi molto pratici, perché dice che stiamo facendo una trasmissione solo per competenti, cerchiamo di ascoltare tutti, quindi magari, non lo so, si inventi lei una tipologia di investimento, 10.000 euro, quanto sta rendendo adesso, se questi soldi fossero stati investiti un anno fa con le precedenti emissioni e quanto teoricamente potrebbero rendere adesso sottoscrivendo il BTP Italia che viene collocato oggi. Prima però Luigi da Roma, perché a questa domanda ci teniamo molto. Luigi, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani, grazie per avermi chiamato. Grazie. Una piccola cortesia, magari non la chiami più piccola patrimoniale, altrimenti se la sentono i nostri governanti magari prendono spunto per aumentarla. Sì, esatto, ha ragione, mi cospargo il capo di cenere che non venga in mente a loro appunto di farne, perché qua l'abbiamo anche paragonato un po' al prelievo forzoso cipriota, anche noi nel nostro piccolo ce l'abbiamo avuto, piccola un cavolo, per qualche piccolo patrimonio investito è stata anche bella tosta. Luigi, ci dica. Allora, analizzando il prospetto informativo, anche se non c'è scritto, ho visto che questi ultimi BTP hanno un'opzione delle clausole di azione collettiva, sì. E credo si chiamino le CAC. Sì. Io mi sono già informato, però volevo sentire voi per capire che cosa si tratta e che cosa anche si rischia con queste azioni di queste CAC rispetto ai vecchi BTP, tipo il BTP 1, 2 e 3, che invece non hanno questo tipo di opzione. Grazie mille Luigi, la ringrazio. Io vi dico anche che questo ragionamento l'ho fatto con Maria Cannata, ho scelto deliberatamente di non chiederle una risposta di un minuto su questo tema, perché lei mi ha detto, cioè, se vuoi organizziamo una trasmissione appositamente su questo argomento per spiegare bene perché il Tesoro italiano ha fatto anche un'operazione di questo tipo. Detto che però stanno arrivando molte sollecitazioni dagli ascoltatori, questa mattina Gianni Lupotto, forse vale la pena spiegare ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire che le emissioni del Tesoro italiano, quelle che sono partite dal 1 gennaio di quest'anno e che hanno una durata e che hanno una lunghezza superiore appunto all'anno, sono soggette a queste clausole di azione collettiva. Anzitutto va detto che il Ministero ha recepito una direttiva europea, quindi queste clausole sono presenti dal 1 gennaio 2013 non solo per le nuove emissioni dei titoli di Stato italiano, ma per tutti i titoli di Stato europei, perché è una delle clausole facenti parte dell'istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità, l'ESM. Detto questo, in sintesi succede questo: tutte le nuove emissioni di titoli di Stato italiani hanno queste clausole che prevedono la possibilità all'emittente di modificare i termini e le condizioni dei titoli. Si può variare per esempio il prezzo di rimborso, la data, la seniority del titolo, ma naturalmente non in modo Indisciplinato, incontrollato, volontario, cioè non è che io domani mattina Maria Cannata si alza e dice sto BTP Italia, sapete che faccio, ve lo rimborso come voglio io. Quali condizioni si devono verificare affinché il Tesoro italiano, così come il Tesoro francese, possano fare un'operazione di questo genere? Esatto, deve essere convocata l'assemblea dei titolari e dei sottoscrittori di quello specifico, di quella specifica obbligazione, e ottenere il 75%, il voto favorevole del 75% dei possessori. No, ma io intendevo per il paese emittente, per l'emittente diciamo del titolo in questione, si devono verificare determinate condizioni tali per cui ha un'esigenza. È evidente che a monte ci devono essere delle esigenze di finanza straordinaria e appunto eccezionali, no? Quindi ci devono essere difficoltà finanziarie tali da dover proporre all'emittente di chiedere questo tipo di rinegoziazione. In realtà, se noi andiamo a vedere casi in casi precedenti, per esempio il caso della Grecia, in cui i titoli non avevano queste clausole al loro interno, cosa è successo? È successo che dalla sera alla mattina il Parlamento greco le ha introdotte in maniera un po' disordinata, se vogliamo, e poi sono state applicate, no? Quindi queste direttive, queste CAC, non sono nient'altro che un tentativo da parte europea di regolamentare in modo più ordinato eventuali malaugurati e poco probabili default di una qualche emittente statale. Quindi teoricamente, allora siccome su molti siti vedo che passa il messaggio tale per cui in realtà è grazie a queste clausole Stato si potrebbe, di qualunque tipo, parlo dell'Italia come della Germania e della Francia, arrogare il diritto di scegliere in qualunque momento di riorganizzare il proprio debito, di riscadenzarlo e ristrutturarlo. A me, secondo come me l'ha spiegata lei, l'UPOTO mi sembra invece quasi un meccanismo più tutelante per tutti i sottoscrittori di debito pubblico di qualunque paese. L'ho capito male io? Sì, se non altro è un meccanismo che regolamenta e uniforma queste modalità a livello europeo. È più, ecco, insomma, ha reso più omogeneo. Esatto, rende omogeneo. È chiaro che sono cose che vanno capite meglio, sì, e ovviamente si spera che non vengano mai azionate, perché ma in ogni caso questa è la situazione. Perfetto. Poletto, voleva aggiungere qualcos'altro? Volevo semplicemente, sì, come dire, aggiungere un paio di commenti, perché non vorrei che poi si creasse... Però guardi, io le devo dire che stamattina stanno arrivando una marea di chiarimenti, appunto, di richieste di chiarimenti su questo aspetto. Ecco perché io avevo pensato di farci una trasmissione apposita, anche se poi chiaramente vale la pena farla con più tempo, però comunque è semplicemente stato recepito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto è stato deciso a livello europeo, è sottoscritto da 17 paesi, per cui non è che vale solo per l'Italia, per, certo, gli italiani, ma vale anche per gli investitori tedeschi e vale, certo, anche per il debito tedesco. No, è che questo è chiaro, però essendo che lo Stato italiano ha un tantino di debito più alto rispetto agli altri paesi, noi siamo un pochino più spaventati rispetto alla manifestazione di determinate situazioni. Non riesco a fare nessun tipo di prospetto con Gianni Lupotto, se ce la fa in 10 secondi, 10.000 euro investiti in un BTP Italia dell'anno scorso, quanto rende oggi? Rendono 3,5 punti più l'inflazione, vuol dire se l'inflazione fosse al 2%, il 3,55 più 2, 5,55 per ogni anno che vengono mantenuti. Volevo qualcosa ancora di più concreto, non ce la facciamo, ci ritorneremo magari. Grazie a tutti, a domani. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi ha presentato Salvadanaio.